Sezione settima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto settimo. Osanna sanctus Deus Sabaoth, super illustrans claritate tua, felice signe sorum Malachot. Così, volgendosi alla ruota sua, fu viso a me cantare essa sostanza, sopra la qual doppio lume s'addua. Ed essa e l'altre mossero a sua danza, e, quasi velocissime faville, mi si velar di subita distanza. Io dubitava e dicea, dille, dille, fra me, dille, diceva alla mia donna, che mi disseta con le dolci stille. Ma quella reverenza, che s'indonna di tutto me, pur per bi e perice, mi richinava come l'uom ch'assonna. Poco sofferse me cotal Beatrice, e cominciò, raggiandomi d'un riso, tal che nel fuoco faria l'uom felice. Secondo mio infallibile avviso, come giusta vendetta giustamente punita fosse, t'ha in pensier miso. Ma io ti solverò tosto la mente, e tu ascolta che le mie parole di gran sentenzia ti faran presente. Per non soffrire alla virtù che vuole freno a suo prode, quell'uom che non nacque, dannando sé, dannò tutta sua prole. Onde l'umana spezie inferma giacque, giù per secoli molti in grande errore, finch'al verbo di Dio discender piacque. U la natura, che dal suo fattore s'era allungata, unio a sé in persona, con l'atto sol del suo eterno amore. Or, drizza il viso a quel che si ragiona, questa natura, al suo fattore unita, qual fu creata, fu sincera e buona, ma per se stessa pur fu sbandita di paradiso, perocché si torse da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse, sa la natura assunta si misura, nulla giammai si giustamente morse. E così nulla fu di tanta ingiura, guardando la persona che sofferse, in che era contratta tal natura. Però d'un atto uscir cose diverse, ch'a Dio e da Giudei piacque una morte. Per lei tremò la terra e il ciel s'aperse. Non ti dee oramai parer più forte, quando si dice che giusta vendetta poscia vengiata fu da giusta corte. Ma io veggior la tua mente ristretta di pensier in pensier dentro ad un nodo, del qual con gran disio solver s'aspetta. Tu dici, ben discerno ciò che odo, ma perché Dio volesse, m'è occulto a nostra redenzion pur questo modo. Questo decreto, frate, sta sepulto agli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d'amor non è adulto. Veramente, però, che a questo segno molto si mira e poco si discerne, dirò perché tal modo fu più degno. La divina bontà, che da sé sperne ogni livore, ardendo in sé sfavilla sì che dispiega le bellezze eterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla non ha poi fine, perché non si muove la sua imprenta quand'ella sigilla. Ciò che da essa senza mezzo piove, libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nove. Più le conforme e però più le piace, che l'ardor santo ch'ogni cosa raggia nella più simigliante è più vivace. Di tutte queste cose s'avvantaggia l'umana creatura, e s'una manca di sua nobiltà convien che caggia. Solo il peccato è quel che la disfranca e falla dissimile al sommo bene, perché del lume suo poco s'imbianca ed in sua dignità mai non riviene, se non riempe dove colpa vota contra mal dilettar con giuste pene. Vostra natura, quando peccò tota nel seme suo, da queste dignità di come di paradiso fu remota, ne ricovrar poteasi, se tu badi ben sottilmente per alcuna via, senza passar per un di questi guadi, o che Dio solo per sua cortesia dismesso avesse, o che l'uomo per sé isso avesse soddisfatto a sua follia. Ficamo l'occhio per entro l'abisso dell'eterno consiglio, quanto puoi, a mio parlar direttamente fisso. Non potea l'uomo nei termini suoi mai soddisfar, per non poter ir giuso con umiltate, obbediendo poi quanto disubbidendo intese ir suso. E questa è la ragion perché l'uom fue da poter soddisfar per sé dischiuso. Dunque, a Dio convenia con le vie sue riparar l'uomo a sua intera vita, dico, con l'una, ovver con ambedue. Ma perché l'opera tanto è più gradita dell'operante, quanto più appresenta della bontà del cuore, onde è uscita? La divina bontà, che il mondo imprenta, di proceder per tutte le sue vie, a rilevarvi suso fu contenta, né tra l'ultima notte e il primo die sì alto e sì magnifico processo o per l'uno o per l'altro fue o fie, che più largo fu Dio a dar se stesso in far l'uom sufficiente a rilevarsi che se egli avesse sol da sé dimesso. E tutti gli altri modi erano scarsi alla giustizia se il figliuol di Dio non fosse umiliato ad incarnarsi. Or, per empierti bene ogni disio, ritorno a dichiarare in alcun loco, perché tu veggi lì così com'io. Tu dici, io veggio l'aere, io veggio il fuoco, l'acqua e la terra, e tutte lor misture venire a corruzione e durar poco. E queste cose pur fur creature, perché, se ciò che ho detto è stato vero, esser dovrian da corruzion sicure. Gli angeli, frate, e il paese sincero nel qual tu sei, dirsi posson creati, sì come sono il loro essere intero. Ma gli elementi che tu hai nomati e quelle cose che di lor si fanno, da creata virtù sono informati. Creata fu la materia che gli hanno, creata fu la virtù informante in queste stelle che intorno a lor vanno. L'anima d'ogni bruto e delle piante di complession potenziata tira lo raggio e il moto delle luci sante. Ma nostra vita senza mezzo spira la somma benignanza e l'innamora di sé sì che poi sempre la disira. E quinci puoi argomentare ancora vostra resurrezione, se tu ripensi, come l'umana carne fessi allora che li primi parenti intrambo fensi. Fine del canto 7.